Fernando, c'era Fernando e basta. Ah, c'è anche Alessio, Ale. Va bene. Da solo. Vabbè, certo, da solo, con la birra. Non si beve mai da solo la birra, sempre in coppia. Ma lui è geloso, capito, qua è che gliela tocca la birra. In solitaria, eh. Fernando, ci sì? Ok, Fernando, ricordo a cambio al 100%. Mo pure ti, ci sentiamo le prossime, entra più spesso. Franco, mi saluto a tutti, se non avete sentito, Fernando, che sta chiudendo. Ci risentiamo le prossime. Sì, adesso l'ho sentito nuovamente. Ciao Fernando, mi raccomando, metto una bella antenna anche a casa possibilmente, così ripiazziamo di nuovo la frequenza, dai, sul canale 10. Dai, un abbraccio anche da parte mia. Avanti il prossimo, non so chi ci sia. Dottore, ripeti. Sì. Ciao Fernando, ci risentiamo le prossime, ok. Buon corretti. Ciao Fernando. Ogni tanto c'è le cose capolino. Beh. Cosa fai? Di già. Cosa? Sono qui, mi sono tutto preparato, attrezzatura per domani. Ma non con il lavoro di Sassa, ma purtroppo devo andare con l'avvocato nello studio suo a Chiesi e a Cozzà, elettrico, idrico, serramenti, chi più ne ha più ne metta. Partiamo alle 8 e poi diventeremo mezz'ora l'una, cosa ne gioco. Poi ci sono il materiale, si fa l'elenco e il prossimo sabato ci arriva. Ruia, fatti un sorpreso Sassa, dai, ci vediamo domenica. Mi tocca trovare domenica, pazienza. Ma lavoro veloce. Eh? Lavoro veloce. No, devo qualche piccolo impianto, ma la parella che è lì a quanto pare il cortile, c'è questo cacchio di Montovilla che già una volta gliel'avevo liberata, adesso c'è l'altra parte, è un casino. Bisogna afferrare per tagliare anche la tapparella, se non la piglia. E maledetta quella in foccia delle spine, gà. Ho prodotto l'attrezzatura, l'attrezzatura elettrica, qualche presa, qualche campanello devo fare. Insomma, poi tutto lì devo qualche rubinetto. Insomma. E c'è la giornata anche per domani, pazienza. Anche se prendo poco, 200-300 euro. Attrezzatura mista. Eia. E infatti dopo la Sassa e Toscopo devi capire, io ho cercato la scusa, devo andare da mio figlio a urgenza di me, mi si è bloccato l'autoclave e mio figlio già lo sa che mi dà posata, quindi una scusa ho cercato. E vabbè già, e cosa vuol dire? Sempre se ne fabbrica, avanti fra. Non mi stavo seguendo, scusate perché stavo parlando un po' in verticale, anzi ne approfitto per salutarvi, dai, anch'io faccio QRT momentaneamente. Mi saluto a Gianni, mi salutate anche, non so, Daniele, Claudio se dovete rientrare, Luca e compagnia, Marco e Dore, che ci è rimasto poi, non lo so. Leggo qua, Fernando ha chiuso, quest'anno mi stai dimenticando nessuno, Tonino, saluto anche a te, riprendi Tony. Ok, fra, d'accordo, buon quarantino, allora, saluto Tony. E buon carica batteria quando lo fai. Entra più spesso, quindi ci sentiamo meglio, dai. Ok, che faccio il piacere. Avanti Gianni. Ciao Franco, ciao, buona continuazione di serata, dai, grazie per il questione. Avanti Marco, ci sei. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, come hai sentito, dai, Carlo, avanti. Non so chi ci sia, Franco stava salutando, lo saluto anch'io, Tonino, ho sentito, ciao Tonino, Gianni, e poi non so chi c'è, a voi il mic. Dove? Sì, anche io sto chiudendo subito. Saluto a tutti, saluto. Ciao Fra, ci risentiamo alle prossime, tanto che è chiuso. Andate. Sì, è così. Io chiudo e me ne vado a prepararmi. Ci risentiamo già. E buon lavoro. A domani. Risentici. Ciao Tonino, ciao a tutti quanti gli altri. Ciao Tore, ciao, ci sentiamo. Buona serata. Avanti tu. Ciao Tore, buon correntino, tutti ci sentiamo. Andate bene bene da Gianni, tutti sono andati via. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, poi Carlo. ben sentito. Carlo. Ciao Claudio, ciao Tore, se stai andando via, alle prossime. Oh, ciao, ciao Carlo, oh, io vi ho avvisato, ciao. Il telefono sempre andando e tornando, sono mi metti in capo, va bene, sono qua comunque. Cappa, va bene Claudio, è rientrato. Avanti già. Io fra poco devo andare a portare il cane, allora Carlo, girella lei. No, ero a casa, stavo facendo un corso PRM al computer, una rottura di palle, in questo periodo si stanno caricando di corsi di formazione e quindi lo volevo finire, durava 2 ore, per cui sono entrato adesso giusto per salutarvi, so che l'ora è tarda. E niente, no, stasera non sono neanche uscito, un po' facendo domestiche, poi alle 5:30 mi sono iniziato il corso, ho finito 2 ore, durava, alle 7:30, ho chiuso adesso la piattaforma e niente, e siamo qua. Gianni, poi hai risolto, sei ancora in alto mare là con la, col lavandino di cucina? In alto mare, adesso mi sta uscendo anche acqua da sotto, boh, non si capisce da sotto la cucina, perdite nelle tubazioni non ce ne sono, boh, non capisco da dove sta questa. Ho staccato lo scarico e acqua ne è scesa pochissima, non ce n'era. La pressione, i tubi di scarico e magari acqua di ritorno, capito, se c'è l'intasamento, magari è vicino alla, come si chiama, alla, dove c'è il WC, adesso non mi viene, alla Braga, vicino alla Braga, quindi lì magari uno che ha voglia eccetera potrebbe fare anche il tentativo di levare il WC e poi da lì entrare con la sonda a vedere qual è lo scarico, capito, del lavello e insomma tanti tentativi si possono fare, però ovviamente ci vuole la persona disponibile che lo sappia fare. Domani viene l'idraulico, vediamo un po', speriamo che se la cavi, perché mi ha detto che lui al 95% me lo libera. Speriamo, magari con la sonda più grossa, come dicevi ieri, dai, speriamo che possa risolvere, perché comunque il lavello di cucina è quello che si usa di più, è fondamentale per tutto. Infatti, prima mi è scesa acqua sporca, dopo mi è scesa pulita l'acqua, non capisco, non riesco a capire che cosa sia, prima è uscita con la schiuma disgorgante, che è tutto scivoloso, roba di 5-6 secchi d'acqua cambiata. Oh già, stavo pensando. Già lo immagino, perché una volta è capitato anche a me così e ti posso dire, io addirittura con la pompa mi sono dimenticato che dietro c'era un altro scarico, quello della lavatrice, è saltata la pompa, quindi ha spruzzato lì, avevo sporcato tutta il muro, mi era toccato poi a ristrutturarlo, insomma un casino. E quando succedono queste cose purtroppo è un sacco di disagio. Tonino, come andiamo allora? Sempre lavorando, perché da una parte all'altra proprio la attrezzatura, domani sono attesi. Gianni, sai cosa stavo pensando? La molla stacca la manovella, attacca la trappola, la farò girare, avessi andata a Forza Pagana. C'è già quelle su internet, basta andare su Amazon e c'è questo attrezzo che praticamente si attacca al trapano con la molla e la fa andare, c'è praticamente la molla tutta quanta girata dentro un contenitore che se ne va piano piano, capito, e va avanti e quello lì si attacca al trapano. Capoletto, si potrebbe fare così anziché aspettare a ordinare questa roba là fuori, e capita, uno si va presso la presa, il trapano ce l'abbiamo tutti qui, stacca la molla e andà via, pare si anda, forse Mariana. E lo sai cosa c'è? Che la molla quando poi trova l'ostacolo si gira su se stessa, non è così come dici tu, si gira tutta quanta, si grumiglia. E poi quando vedi che non va più si blocca, tiri e le cazzi tutto via e ne sono tappo. Adesso domani viene questo qua, questo idraulico, mi ha detto che lui al 95% gli ha sempre risolto questi problemi, che non dovrebbero esserci problemi, che ci tenta, ha detto lui, io vedo che ci tento, vediamo un po' se ci riesco. spero che poi invece il 95% ci riesce, spero che il 5% non ci riesce e poi si è putti a capo, è quello, E se non ci riesce se ne va, pazienza, io devi va. Io non posso sfasciare i turni, non c'è un mattonello, tocca comprare il mattonello, tocca comprare tutto. Se io sfascio devo cambiare tutto il piastrellaggio. Non è che debba uno due mattonelle, scusa, non è casa tua. Sai che c'è stato un intervento lì in quel momento, meglio due mattonelle diverse che invece avere che ti prende acqua, che non vuoi lavare il lavello, che è un casino, c'è sempre il tappo. E vabbè, adesso vediamo, cambiamo discorso, che sono abbastanza stressato. Avanti Carlo. E infatti dai, era giusto la curiosità mia, la speranza che tu avessi potuto risolvere solo lì. D'accordo, niente mia, io ho stressato da tutti questi corsi, questo mese ne ho fatto tre, siccome abbiamo pochi voli, pochi passeggeri e quindi la società di gestione ci deve sempre formare, addestrare, capito? Ne sta approfittando e ci sta facendo impazzire, capito? Però dovrebbe essere l'ultimo di questa stagione, meno male. Adesso abbiamo il mese di febbraio, di marzo e poi da aprile iniziamo a trottare come ripartono tutti gli altri voli, quelli, le destinazioni europee, capito? Niente, tutto lì. Domani praticamente finisco il turno di mattina e poi ho ferie fino al 10. E ho preso una decina di giorni di ferie, così mi sistemo alcune cose, compreso quello di mettermi l'antennino boomerang, cazzo, che mi è già arrivato, ma l'ho provato a montare dentro casa, è un bel lungo, capito, 2,75 m, lo stilo più grande, e una novantina di centimetri quello più corto, però mi sa che metto un pezzo di tubo attaccato alla ringhiera da 2 metri e poi lo fisso lì e così lo metto anche più in alto, capito, della ringhiera, tanto sopra di me c'è solo una mansardina e così la punta dovrebbe andare anche un pochettino a livello del tetto della mansardina, vediamo un po' cosa riesco a combinare. Pensate che te la allontani dal muro perché c'è anche da stazionare. Carlo, dimmi. Ti ha già fatto un'interrogazione Gian, la punta non la fare toccare alla cornicione perché sennò ti crea problemi stazionari. Uno, e il radialino quello piccolo, ok, quello con lo strumento metto a 45 gradi deve andare. Sì, ho le istruzioni e c'è scritto col goniometro, l'ho già impostato così, no, quello, per quello già la metto distante, il tubo va dritto lungo la ringhiera, lo fisso alla base così rimane bello stabile e poi c'è una terminazione a L dove attacco l'antenna, quindi andrà staccata diciamo dal muro e insomma dal palazzo per un 30 centimetri circa, e eventualmente poi se mi crea problemi stazionari e lo allungo ancora di più. Sai io come avevo fatto a suo tempo quando ero via Pascoli, dovevo montare l'antenna su, quindi stavo aspettando e poi l'ho montata su, vabbè, sul tetto. Nella ringhiera cosa avevo fatto? Un tubo telescopico, però ho fatto chiaramente non grande, era da 2 più 2, no? Avevo sacrificato un tubo che ci avevo, l'avevo tagliato a metà, che avevo fatto un metro, ok, telescopico, con quei collari, quei cavallotti, l'avevo attaccato nel corrimano della ringhiera, uno in punta e uno nell'altra punta, l'antenna attaccata, e l'avevo fatto telescopico, l'avevo fatto uscire quasi un metro e venti, 1,30 m attaccata al muro, era una cannonata, perché se ti avvicini molto al muro, soprattutto quel tipo di antenna lì, no? Che da 2,75 m ti crea problemi, Carlo, capito? Per quello te lo sto dicendo, allontanati 30 cm è troppo poco, se ce la fai allontanati anche 50 cm dal muro. E allora mi devo preoccupare. curare una staffa, ma già sono in ferie i prossimi giorni, quindi avrò tutto il tempo. Se riesco, perché anche a me mi sembra un po' cortina quella che c'è di serie, capito? E quindi se riesco l'allungo, così la stacco almeno mezzo metro, capito? E una parte della punta dovrebbe andare al di sopra poi del tetto, però sempre staccata, non si appoggia da nessuna parte, quindi spero che mi dia un segnale, diciamo, in ricezione almeno migliore, dai, di questa che ho. Allora, se quella è corta, ne compri un'altra, si chiamano staffe Paolo Paolo, vai a posare e te la compri, ok? Fai da Roberto, no? Passi a Roberto, te la fai girare contrario, la parte piatta, e te la fai saldare all'altra, una parte l'attacchi alla parte quella che è in dotazione all'antenna, che il collettore è dello stesso diametro, la usi per attaccare l'antenna, e l'altra te la usi col cavallotto per attaccare la ringhiera, capito? Ok, quindi Fusaro ha anche questi pali? Sono staffe paro paro, mi pare che ne ho una anche io, ma devo cercarla, Carlè. La mia era 30 centimetri lo stesso, l'avevo usata, non mi ricordo perché cosa, forse per attaccare l'altra antenna VHF alla quella che c'era, ne avevo due, quando era Carbonazzi. Allora sì, ci sono, tu dici, mi hanno un'antenna da ringhiera paro paro, e te la dà. Ok, domani o dopodomani, dai, che ho più tempo, mi organizzo e cerco questa staffa palo palo più lunga, e così spero di non avere problemi. Grazie dei consigli, metterò in pratica, poi già ti faccio sapere, Claudio. Se sei in ferie, che hai problemi, chiamami e vengo a dartene uno io. Va benissimo, se dovessi avere problemi, certo. Ma poi la grande ce la piattici, non è perché c'è quello che piace più l'altro. Aspetta che c'è un'emergenza al telefono, attiva, ma chiama tuo amico. Capito, Carlo? Se hai problemi mi chiami e vengo a dartene uno io. Porto da palo rotondo, ancoraggio a terra, vabbè, manicotti, ce ne sono diversi, capito? Eh sì, mi devo organizzare, perché se riesco a piazzarla, questa antenna dovrebbe andare meglio di questa che ho. Speriamo, dai. Speriamo che vada bene. Va bene, allora, io adesso sono quasi le 8 meno 10, mi inizio a preparare la cena e niente, e poi ce la risentiamo sicuramente nei prossimi giorni di più, perché sarò, ho detto già, ripeto, in ferie una decina di giorni, quindi già mi farò sentire anche di più in radio, anche perché avrò la curiosità di provarla questa antenna. Vediamo un po', spero anche che i condomini non mi rompano le palle, tanto è un mio diritto a metterla nel mio terrazzino, poi se esce un po' in facciata non me ne frega niente, e la metto lo stesso. Capo. Va bene Carlo, dai, ti saluto allora, buon lavoro per domani, quando piacerà l'antenna o questi giorni, dai. Va bene, ciao Claudio, ciao a tutti i nostri amici, Marco se c'è, non lo so, quelli che stanno ascoltando, dai, ciao a tutti. Scusa, credo io che anch'io sto chiedendo, che volevo dimettere il giornale. Ciao Marco, ciao Carlo e ciao Gianni, eventuale ascoltone, ci sentiamo. Comunque adesso che si in ferie, Carlo, adesso ci vediamo, ci prendiamo qualche caffè, che cavolo, siamo dopo il pole senza vederci. Di nuovo riprendi Carlo, di nuovo, ascolto finito e chiudo, ciao ciao. Ciao ciao ragazzi, sono qua, vai Carlo. Ciao ciao Tonino, ciao Claudio, ciao a tutti, io sto chiudendo, dai che vado a portare giù il cane, ciao. Vediamo qualcosa insieme, certo che sì. Va benissimo, dai, vi saluto tutti e nel caso poi ci risentiamo. Tante buone cose a tutti, buona serata, alle prossimine. Ciao Claudio, ciao Tonino, Gianni e tutti quelli che sono in ascolto. E scusate se ho dimenticato qualcuno. Ciao, ciao Carlè, ti ho detto, non ci sono problemi. Se hai difficoltà, chiamami e lo facciamo insieme quel lavoro che ho già fatto, ok? Benissimo, K Roger. Ciao, ciao, ciao a tutti, buona cena. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Attenzione 10, gaffa, gaffa, gaffa.